hanno avvertito, non hanno mandato l'ispezione direttamente. E vabbè, allora anche io lo faccio a gennaio. Anche Roberto, ricordate che dovevi fare a gennaio allora, perché tu hai pagato quello di quest'anno. Infatti. Entro il 31 gennaio si paga. Sì, non si può pagare a dicembre, solo per dell'anno. L'anno solare inizia dal 1 di gennaio. Dal 1 gennaio in poi, entro il 31 dicembre, devi pagare. Il 31 gennaio si paga. Devo scaricarmi, a meno che non me lo manda qualcuno per WhatsApp, tutte le informazioni, perché l'ho visto su internet di sfuggita. C'è proprio una domanda, uno ha fatto di questo al ministero. Si paga dal 1 gennaio al 31 gennaio. Però devo scaricare la casuale e il codice di coso della fotocorrente. Certo, da Claudio, e ce l'ha. Dai, che Claudio Pirata non ne ha mai pagato quello lì. 30 anni ha giocato di Pirata io. Quando mi hanno trovato a me ci avrei fatto la banda nell'occhio, cazzo, la bandiera sotto al tetto. E che sei abusivo. E certo, la matta di Nevare mi hai fatto 40 anni tu di Pirata, già lui. Sì, ma siete anche gamba di legno allora. Io ho la benda nell'occhio. È la titante, Natalino, non riesco a scovarlo. Però tu immagini, la volta che era venuto, coso, Pirati. Io avevo tutto conservato dentro l'armadio, nel frattempo che loro stavano salendo, l'ascensore, stavano prendendo la strumentazione, eccetera. Spaccato tutto, c'era un alimentatore della Ite che da 45 ampere. E tutto avevo messo, accendevo, mi sembra il 430, adesso non mi ricordo, no, la linea IESO, 7500 GX2, tutto, avevo buttato tutto l'armadio, cazzo, siccome non ci stava, mi sono, mi hanno detto, apri, fai tra i signori, cazzo, io mi sono rimasto con la mano attaccata all'alta dell'armadio, e ho detto, cazzo, veniva raduto, mi si chiama, sono entrato, buongiorno, aspetta, che bel alimentatore che c'ha, e cosa alimenta questo baracchino? Sì, l'ho trovato così, grande, sì, davvero, 4 gare, 5 cavi che entravano nella finestra, e tutti questi cavi, aspetta che abbasso, allora tu hai predisposto tutto, quella, ma non si può venire qua a farci vedere questi cavi dove passano, lasci l'anta dell'armadio, lasci l'anta dell'armadio, cazzo, volo l'anta dell'armadio, l'hai fatto tutto in terra. Che bella figura! Che figura di merda, sì, no, ma cosa ci sta come ha? Guarda, vale, mi dispiace, io sono appassionato di radio, quella, ti ho raccontato quei Vauro, di Cosetti, così, c'è un Pira, mi ha preso un pantalone, ma ti ascolti. Cioè, a lei le piace la radio veramente, ma perché non va dall'esame? Guarda, vale, vorrei andare qui, ma non c'ho tempo, io lavoro, capisci, la mia figlia era già andata, piccolina. Invece mi sono messo l'impegno, sono andato con la buona maestra dell'epoca, lì non ci siamo messi, già ti ricordi Giaffre, e siamo andati, quando sono tornati, mi ha detto guardi, dopo la sessione se ne dà l'esame noi torniamo. Torno, Biatto Dutto, vedete quello più a zero, Biatto Dutto, anche lineare c'avevo, TL922, Natali, mamma mia, come messo, Natali, finalmente, la patente, eccola qua, il volo più a zero, non levate le C0, no, lo vedo, devo dare dopo, invece mi hanno esorenato, potevo averla subito io la patente di C0, a Baida, il volo più a zero, guardati, ehi, questa è radio, scusi, c'è una patente, ma allora non ha capito niente, lei. Questa radio non la può tenere lei, solo con la patente speciale, l'ordinato, come, boh, non me la metto più, comunque con il nominativo IS0 le puoi usare queste radio, ci avevo immagina più poco di gosci, tolga tutto e lasci questo VHF a 10 watt, allora ti ricordi c'è la regola di 10 watt, a 10 watt, e dopo quando c'è la patente ordinaria, sì ordinaria, torniamo, sono tornati, ci abbiamo fatto due risate, ho fatto il caffè, e adesso quando ci vediamo, adesso non ci vediamo più, stia bene, arrivederci e buon viaggio, la mazza che viene qua. Se te l'hanno fatta apposta per quello, perché adesso neanche ci potrebbero venire così spesso con tutto quello che ci hanno da fare. Da te, ma venuti solo a controllare? Sì, da me sì, sono venuti, c'ho la stazione, il ricevitore, trick e track, eccetera, ma erano lì più che altro per chiedermi un'informazione. sono venuti, sono entrati, hanno guardato le radio, non le hanno neanche accese, hanno detto sì, ascolti, ma lei conosce per caso questa persona che esce con un nominativo? Ma io ho detto, boh, io sono sempre fuori, è raro che accenda, anche se c'è la stazione, l'antenna, tutto quanto, però è raro che accenda. Ah, va bene, perché stiamo cercando uno qua che è in zona, però abbiamo visto che anche se è WPOL non è... Va bene, ok, tutto a posto comunque. Se vuole facciamo anche il verbale, diciamo, no, oh, c'è bisogno. Arrivederci e grazie, se ne sono andati. Ma perché quindi vengono normalmente a tutti, non è che vengono così a Setturi che hanno voi? Beh, prima potevano venire, come è successo a Claudio, tante volte, anche il giorno dopo, per scammarti. Ma di norma avevano solo se c'era qualcuno che faceva lo scemo, capito? Allora sì, oramai vanno solo sotto richiesta, poi la 27 è diventata anche libera, quindi non c'è più la necessità di fare queste ispezioni. Adesso loro stanno facendo soprattutto ispezioni sulle navi, perché quelle rendono parecchie soldi all'amministrazione, capito? Sulle navi e per le concessioni nautiche. E poi se proprio hanno qualche cosa di segnalazione o dal centro di Roma o dal centro di Sassari, vanno per quelle, anche per le chiamature, ma non è che insomma sia così prioritario, ecco. Chi è avanti? Chi sei avanti? Non ho capito chi sei, sento il bip che stai parlando, se 9:10 da me, però non ho capito chi ha detto. Carlo, non ti capisco cosa ha detto, chi è che ha capito cosa ha detto? Gianni, doppio rum, perché sta uscendo così male la radio, è quasi incomprensibile, il segnale è buono, quasi 9:10, però non capisco la radio. Guarda, arrivano Santiago 7, Gianni, deve arrivare 9:20 da giudizio. Ma dove si trova? Ma c'è l'antenna a terra, c'è l'antenna a terra. Santiago 7 sta arrivando qua, il segnale di Gianni è 9:20. E anche da te deve arrivare molto più forte, così a 9:10. Anche qua è saturo, boh, non capisco niente quello che avete. Si capisce il bip e pure parlando, però non riesco a capire quello. Gianni, se mi ascolti, prova a parlare di nuovo. Si capisce, non riesco a capire quello che dici, non c'è radio, è proprio vero. Come hai fatto a capire che era Gianni tu, Gianfra? Perché ho sentito l'ultima parola che ha detto Gianni doppio room, però è anche da me bassissimo di radio, al limite dell'ascolto. Ma per radiando già con l'antenna, mica bruci la radio, pone l'apporto. Qua esattamente Santiago 5, neanche 7, Santiago 5, Gianni c'è un segnalone qua. 9:20 e quando attacca 9:30, quindi è Santiago 5 e radio non ce n'è. Ma non è che stai usando l'accordatore tu e non stai radiando l'apparecchio, già che magari c'è le stazionarie a 1000 e stai mettendo l'accordatore per abbassarla. Radiando l'antenna, vabbè, c'ha l'antenna rotta, c'ha l'antenna rotta. Per quello sto dicendo, se c'ha l'antenna rotta, magari lui sta utilizzando l'accordatore per abbassare rientri, però non stai radiando. No, la tua c'è Santiago 7 tu. Cosa è successo qua? C'è Santiago 7, Claudio, cazzo mi arrivi 9:60. Che miseria la trabù, ma tutti gli altri segnali si dica. No, qua. Ti ascolto benissimo a te, però Santiago 7, tu c'è 9:40. E di cosa stiamo parlando? Roba di segnale stai perdendo. Gianni, vabbè, mi aveva già detto che ha l'antenna in avaria, però non stai radiando già con l'antenna, non c'entra niente le stazionarie, non stai radiando proprio, capito? Non stai radiando, forse come coricata, piegata, non stai radiando, quindi stai attento a non fare danno. Va bene, avanti Roberto, quanto ti arriva a te, Claudio? Perché a me mi arriva a 7. Ma muro cosa dice? Ehi, arriva 8 ma non lo sento quasi, è mezzo al QRM, e qua quando ci va l'altro giorno con due volte arrivava 9:10. Cambia radio anche tu, non vorrei che toccati le balle che non sia l'antenna, mi sembra strano, perché tu anche con 4 volte fate qua arrivi 9.20, 9.25, ma non sappiamo 7 qua. La radio è bellissima, il 5 è perfetta, io ti ascolto bene perché non ho QRM, il segnale però è 7. Mi sembra troppo basso, troppo basso. Nathalie. Non mi sento io, né a Gian né a Coso, né a Claudio. Io lo sento bassissimo, di radio, lo sento di segnale, ma di radio quasi niente a Claudio. Niente, deve essere il vento di ieri notte. Lo sai che qua mi ha incicciato una staffa, infatti domani se faccio in tempo a Drizzo, che neanche due persone ce la fanno a piegarla. Ma la staffa che regge l'antenna è il palo? Sì, il palo dall'antenna VHF, quella ausiliaria. Le altre sono tutte intatte, le ho già collaudate, ma quella lì c'è il palo storto, infatti. Non ho capito come diavolo ha fatto a piegare una cosa del genere. È nuova, è messa da 3 mesi fa. E il vento è maledetto, ieri notte ne ha fatto di tutti i colori. Comunque se pensa qualcuno io vi vinco una guerra. Ma muro su Claudio, io non ti ho mai sentito così basso, anche se esci con metro watt, cacchio, ti dovrei sentire, secondo me c'è qualche... Io mi sto allontanando, sto andando a cena, riprendi Claudio. Ciao Gianfra, buona cena. Claudio non ha ripreso. Riprendi... No, è al telefono. Ok. Ciao Claudio, ciao Gianfra. Ciao, prendiamo la cicca. Sì, con il microfono è pronto, c'è da saldare i due fili, non c'è da sbagliare, grigio con grigio, rosso con rosso, è quello blu. Le connessioni sono tutte attaccate, non è stato toccato niente lì, quindi, però da me non va, col che mondo non va, evidentemente no, è completamente diverso. E infatti le connessioni saranno diverse. Sicuramente, poi non ho neanche l'adattatore, l'avevo dato l'adattatore... ma non ne ho, ma comunque dovrebbe funzionare, saldati la capsula, e quello lì è originale, ICOM, c'è anche la scritta ICOM, M36 mi pare, capito, e quello era del 275H, 275, ah no, quello era dell'820H, quindi sì, 820H e l'M36, di quello più l'M12, del coso, del 275H, l'M13, sono tutti uguali, è come sagoma, però cambia la scritta, capite? Per Maciuffi. Branco, a che ora venite domani, Fra? Dimmi tu, buonasera a tutti. Non so, si è messo d'accordo Anna con Anna, non so che era salita, non salita alle 8, no? Tanto andiamo noi a prendere quello che ci serve, andiamo io e tu dopo. Ok, non c'è problema, già quello che va bene a loro va bene a noi, Mikla. Tra un po' scendo al ghetto e sto provando con l'antenna di coso di Eugenio, a vedere se ne va meglio, ma non è da 2 metri, è da 1,80. Infatti domani è stata tagliata, ha detto di no, non so, di antenna è Natalino, se ne intende di antenna di macchina, c'è anche Natalino, riprendi Natalino. Ciao Fra, buonasera, ben entrato. Ciao Natalino, buonasera anche a te, è la Turbo 2001, io pensavo che fosse 2 metri, invece è non l'ho misurata, ma è meno di 2 metri, sicuramente è 1,80, dai. È lunga quella lì. Io ho la PLC 800 qua sopra la base magnetica. Ma questa è uguale alla mia, soltanto che la mia credo sia 1,60, questa è un 20 cm in più, dai, quindi non è un granché, ma qualcosa dovrebbe migliorare. La cordatura sembra che sia quasi uguale, quindi sembra che sia tarata. Penso di sì, rende il sì, è più grosso, anche lo stilo più grosso c'ha, la Turbo 2001. Sì, ma tra un po', guarda, sto scendendo al ghiero, ma se ci siete facciamo due battute. Io subito vado a cena, ma se ti sento già ti rispondo, non c'è problema. E tu Claudio ci sei? Claudio sta pippando. No, sto operando con Ilaria. Natalia, andiamo a mangiare. Cazzo. Facciamo un break? Ehi via, ti ha sotterrato tutti. Aspetta, Claudia, cosa hai detto Natà? Ho detto che sto andando a cena, dai, mi devo misurare la glicemia. Fammi sapere quando ci possiamo vedere per quella cosa lì. Sì, è pronto. Adesso vediamo se è anche domani. Vediamo come sono messo, se c'ho la macchina, capito? Ok, già ti faccio sapere, comunque è pronto. Sì, claro, adesso sei tu, avanti, sei staccato però. Non rispondere. E se no mi faccio trovare lì in piazza Alessini, prendo la macchina e vengo lì. E ci troviamo in piazza Alessini. Sta parlando Claudio. Bene, bene, sì, 9:20 Radio 5, manca un po' di segnale. 9:20 abbondante Radio 5, il tuo segnale comunque dai, con pochi fatti. Chi c'era sotto a Claudio? No, ho avvisato a, forse che non sentiva Claudio Natalino, l'ho avvisato che stava parlando. Tanto a te non ti disturbiamo. Dai, io sto chiudendo, se ci sei riprendo dalla macchina. Ehi, va bene, mi stava dicendo Anna anche verso le 7, va bene. Ok, dai, riferisco. Ok, così facciamo due chiacchiere, facciamo un aperitivo, eccetera. Ci aggiorniamo via bassa, fra. Sentiamo dalla macchina. Ok, avanti qua. E Franco riprende dalla macchina, qua, ti sta andando al lavoro, capito, sta andando al ghero. Niente, dai, c'è 5RX, aspettiamo Roberto, ma Roberto è al telefono, ok? Ehi, tranquillo che è il tuo segnale. Volevo sentire Gianni doppio room. Gianni, ci sei? Gianni, c'è l'antenna piegata. Non stai radiando, addirittura manco Natalino lo sente, qua Santiago 7, bisogna riaddrizzarla, perché uscire esce, però bisogna riaddrizzarla, va bene, dai, ci sentiamo dopo qua. Questa è la segnaletta degli anni sicuramente 70, funziona bene, sì, era un po' da andare a vedere, ma Babbo già l'ha controllato, dai. Va bene, allora X anche per me, ci sentiamo dopo, appena rientra Roberto. C'hai un po' l'alternata, fra. E come mai? Sono in macchina. Dimmi, fra. Come sto andando? Benissimo, dove sei? Nel piazzale, diciamo, dove lavoro, dai, sotto casa. Quello di Santiago 9, sì. E c'è alternata, perché Natalino sente alternata. Schiaccia. 1, 2, 3. Sì, ma è quel problema di quel microfono dell'altra volta. Adesso ho abbassato un po'. Va meglio? No, non si sente sempre. Male la macchina, perché lo sento anch'io a livello di schermatura. Allora la macchina. Prova a spegnerla, a vedere. Adesso è spenta, però mi si abbassano le luci dell'apparato. Ma dove lo stai alimentando sta radio? Dall'accendi sigari. Ehi, ancora è così. Poi, allora per quello. Allora è lì il problema. Comunque dai, non è una cosa grave, dai, per adesso va bene. Sì, poi quando stai camminando magari non si sente che il motore è in accelerazione. Sì, quasi Santiago 9, sì. Però non ti ricordi come eravamo prima con l'altra antenna, boh. Vabbè, quando sarà faremo le prove con tutti e due, dai. No, beh, da lì non mi ricordo io, da lì, da lavoro a Sassari. Io mi ricordo dal Ghero sì. Adesso per un po' lì siamo chiusi, quindi passavano parecchi mesi prima di fare di nuovo quei lavori lì. Dai, vado a prendere Anna, dai. Via, diglielo che Anna mi ha detto anche verso le 7, anche prima, come volete. Ok, perché c'è l'aria a casa, quindi ha detto se volete venire prima non c'è problema. Poi noi a quell'ora andiamo a prendere quella roba là. Ok, dai, mi sto muovendo. Dai, riprendo tra un po'. Via, va bene. Tutti fuggiti o c'è qualcuno qua? Ciao, va bene. Ciao Franco. Io sono in movimento, sto chiedendo al Ghero, sto provando una nuova antenna, vediamo se va meglio. Stai andando al Ghero o stai rientrando? Sto andando, Roberto. Come sei arrivato? No, ancora sono sotto casa. Ah, 9:10 qua. Ecco, c'è anche Claudio. Ho risposto al telefono, c'era Claudio, Gianfranco e Natalino. E poi c'era Gianni doppio room che stava uscendo malissimo, dice che è caduta l'antenna, ho sentito. Ma gliel'ha aspettata di nuovo? Il vento gliel'ha aspettata. Insomma. Soffre un po' di il vento con l'antenna, dai. Tutto dipende da come la installi. se fa l'effetto flusso all'antenna, anche l'antenna più forte del mondo si stretta, devi fare in modo che oscilli sia l'antenna che un po' il palo. Se glielo metti troppo vicino il tirante, lo metti troppo alla base dell'antenna, e per forza deve fare l'effetto flusso, alla fine si stretta. Bisogna mettere un po' più in giù, almeno a 90 cm, calcolato e calibrato, calcolato nel senso stabilito già da tante prove, almeno 90 cm dalla base dell'antenna deve stare. Sì, deve prestarsi un po' al vento, sennò come tutte le cose rigide si possono spezzare. Eh certo, perché poi ti fa da fulcro di lì, è una legge fisica, non c'è nulla di altro. Eh certo, Claudio ci sei? Niente, Natalino mi sa che sta mangiando. Sta rotendo il cinghiale di nuovo, l'abbiamo preso in giro poco fa. Claudio ci sei? Poi c'era Muros, ma hai sentito così basso, oh, arrivava, non si capiva niente. Perché non avevi non lo so. Stava arrivando, lui minimo arriva, l'altro giorno era con 2 volte, arrivava 9-10. Adesso cacchio, neanche 9, era 8. A Claudio dice che arrivava a 7. No, ma pure mi sa che abbia risolto tutto, non so cosa avete, il problema. Però mi sa che abbia risolto, Perché tu, prima non lo sentivo proprio zero io, invece poi lo sentivo su un segnale di 1-2, come sempre praticamente. Così basso ti arriva a casa tua? Sì, tutti quei paesi, Muros, anche Usino addirittura, a me arriva bassissimo, perché sono proprio troppo in basso, anche se loro sono in alto non li vedo, devo passare tutta la montagna per vedere loro, tutta Sassari, capito? Anche Sorso, Porto Torres, Alghero, non ne parliamo. Adesso questo passaggio l'hai fatto 9:20, dove sei arrivato? Adesso sono al cimitero praticamente. L'altro giorno di lì vicino ai punti c'era, come si chiama, Eugenio col camper, a me mi arrivava 9:05, non sentiva nessuno, neanche a Luca, che Luca era di lì vicino, si dice sentiva solo a me. Che strano, vicino ai punti. Dopo la Brettella, andando verso Santa Barbara, quel pezzettino verso il Bricco. No, perché insomma è una zona abbastanza aperta. Io a Claudio, per esempio, quando scendo in campagna, che più o meno faccio quella strada lì, dagli punti poi svolto sulla destra, vado verso Platamona, non lo perdo mai. Infatti strano, dice ha sentito solo a me, gli altri non lo sentivano proprio, riusciva solo a sentire, cioè a me li ascoltava quando parlavo, gli altri nessuno, e Claudio riusciva un po' a tirarlo fuori, Claudio di Torre di Controllo, lo sentiva basso però lo sentiva, mentre Luca ha detto non senti neanche a Luca che c'era linea d'aria molto più vicino, ha detto no, solo a te l'ho sentito, perché poi il domani è venuto in officina, mi è rimasto impresso a questa scena, ho detto buh, è strano. Avete saputo di quel meccanico papalaccio che faceva dei servizi su YouTube? Non ho capito cosa hai detto. Cioè, saputo di quel meccanico che si è tolto la vita, quel meccanico con i bagettoni che raccontava le sue storie, cioè non le sue storie, sempre di meccanica, da che aggiustava, dava consigli su YouTube. Ma ascolto, perché si è ammazzato? No, ho visto in moto, ma che si è ammazzato me lo stai dicendo tu. Come si chiama? Emanuele, Emanuele Sabatini mi sembra, quello con i bagettoni proprio. Sì, Emasporto, Emanuele Sabatini, è in gamba sempre sorridente e scherzoso, l'ho visto tante cose sue, ma si è ammazzato proprio, io pensavo fosse morto di qualcosa. Ah, no, dice l'hanno trovato appeso nella sua, si è tolto la vita nella sua officina. Poverino, mi dispiace, era molto simpatico, lo seguivo spesso molte cose che faceva lui. Lui c'aveva un'officina questo ragazzo qua, poi è andato a finire male e si è messo a fare queste prove così, queste cose. Che strano, sembrava una persona felice, nel senso sempre sorridente, e lo vedi come l'ha vita. Sì, anche io ho pensato la stessa cosa, infatti sull'articolo c'è scritto proprio così. A volte l'apparenza nasconde problemi dietro, che noi non possiamo neanche immaginare praticamente. Anche a me è dispiaciuto tanto, Cristina. Sono rimasto anch'io un po' male. Sì, già lo so, ma poi era molto appassionato del lavoro, ti faceva vedere, sai dire, motori strani, particolari, motori alte prestazioni, motori aperti, ti spiegava molte cose. Sto dicendo, era interessante, io non sono meccanico, mi arrangio, e piccole cose noi le faccio per il mio lavoro, però ti posso dire, era molto interessante. No, poi spiegava le cose, addirittura usava sempre quella lavagna trasparente, ti spiegava le cose anche per i meno ferrati, dai. Io. Vediamo se c'è qualcuno qua sul canale 10, avanti, non c'è nessuno, vediamo di nuovo a te, avanti Franco. Aspetta, che spengo i sedili, se no mi bruciano le chiappe, ormai già è calda la macchina, vai. Ma tu adesso stai scendendo dal giro per provare la tenda o per lavoro? No, sono per, come si chiama, per amici, dai, rimaniamo lì stanotte. Questo rumore, vum, vum, vum. Non lo so, il segnale è buono, non è che mi si è piegata l'antenna, no? Ok, finestra aperta. No, negativo. Ma sentivo un rumore tipo vum vum vum vum vum, tipo una cosa tipo teggi cristallo. No, negativo. Guarda, non senti ancora? Mari sono i palazzi che fanno questo, di 9-10 questo passaggio. Adesso dovrei salire un po', perché sto salendo, diciamo, dalla parte frontale a Monte Oro, Sei a Monte Oro? Sto salendo dalla parte che va di fronte a Monte Oro, però sono sulla 4 corsie io, sulla Santa Realbiero. Da lì dovresti arrivare la mia bomba. Gianfranco, di lì con le zone libere, sotto Monte Oro arriva la bomba qua. Vabbè, io sono in macchina, Vabbè. Io sono in macchina. Sì, no, naturalmente, la sto parlando. Dovresti aumentare il segnale rispetto a dentro la città. Com'è adesso? Adesso sono forse nella parte più alta. Quasi 9-20. Ma dai, penso che di più non ci posso ottenere, dai, sono liscio. Ah, sta andando liscio? Va bene allora, sta andando fortissimo. No, non ho niente qua, c'ho i due vati dell'apparato, un po' tirato, dai, io li avevo leggermente aumentati, ma penso che siano, non so, 10-15. No, poi è bella anche la radio, squillante, non perdi niente. E sto usando quello della tentativa peppicato, quello che usa praticamente Gianni il profeta, dai. M93. Credo che sia M93, sì. Un po' spartano, ma... Quello ce l'ho anche io uno di all'attaccato all'anacquanatotto, ma funziona bene. Addirittura Luca mi aveva modificato, aveva messo la capsula di un citofono, dice che è una bomba, tutti me lo vantavano. Tu mi ascolti sempre bene in ogni caso. Cosa hai detto? Perché c'ho il QRM molto alto oggi. Cosa hai detto Gianfra? E adesso sei 8. Però se superi il QRM però ti sento un po' disturbato. Ti sto perdendo. Se il segnale c'è, però ti ripeto, io qua c'ho sempre il QRM. Ieri sera era 5, chiaramente. A certi orari diventa 8. Non so se c'è qualcosa che disturba in zona. Comunque la Juve, sto guardando di sottofondo, la Juve 1-1 col Venezia, e ci avete? Qua sei Juventino, Fra. Anti-Juventino, anche io un pochettino anti-Juventino. Simpatizzo per il Milan, ma tu dalla personalità mi sembri interista, o sbaglio? Sì, non sono anti-Juventino, sono interista e basta. No, sto scherzando, naturalmente ognuno è libero di tifare chi vuole, no? Da piccolino non li potevo vedere i Juventini perché vincevano sempre, cattivo. Dico, ma sempre questi, come la Formula 1 Hamilton, alla fine tutti lo tirano, li vinci sempre dentro. Ma invece mio marito addirittura è stato per la partita della Juve. E invece io mi sono uscito inserita, non so perché. Cosa mi facciamo soffrire? Dimmi una cosa, a proposito, la Formula 1 com'è andata? Chi è il primo nelle prove? Il primo è Verstappen. Addirittura, è Hamilton. Secondo, è appaiato vicino a lui. Non ho capito, cosa è arrivato? Secondo, appaiato. Ah, così. Sì, sarà una bella gara domani. Lo so, anche se devo dire che in certe situazioni è molto fortunato Hamilton, la fortuna molte volte ti fa vincere, sono piccolezze, anche se c'è da dire chissà Mercedes, troppe cose strane si sentono, non vorrei che facesse qualche trabocchetto come ha sempre fatto molte volte. Lo so, ma se mi sto allontanando un po', mi senti ancora? Sì, dove sei arrivato, Fra? Sono... No, scusa, non ti perdo a certi momenti la voce. Sono un po' prima di Olmedo. Aspetta, c'è qualcuno qua che è rimasto su canale 10, avanti che vuole entrare. Brecco, Roberto, mi ascolti? A voi adesso si trascolta. Ma che è successo, Claudio? Sì, qua c'è, lei con il conto sta però un po' faro qua, e non sta andando di valvole con la radio, quindi sono attaccata, cioè prima l'ho attaccata, adesso mi sono attaccato il console, perché prima stavo usando l'altro console ancora, adesso mi sono attaccato il console 2 con un altro lineare, sto tirando una cinquantina di watt, mi ascolti bene, tu quanto è il Santiago? Sei quasi Santiago 9:20, radio 5 pulita. C'è anche Franco che sta scendendo ad Alghero. L'hai ascoltato Franco a Claudio? Non vede. Claudio, mi ascolti, buonasera. E tu l'ascolti Claudio? Cioè, Claudio a Franco l'ha ascoltato? Negativo, no, è da me non arriva, c'è in macchina. Roberto, comunque non super saluto, non so se mi sta ascoltando lui. Comunque mi rinnovo i saluti a Franco che mi sta ascoltando. E capito, c'è in macchina, dai, non lasciamo guidare. Riprendi, Roberto. e mi stava facendo compagnia per il percorso, fino a dove riesco a sentirlo, perché in certi pezzi c'ho il QRM alto, lui sta arrivando quasi 9, però c'ho il QRM 8 io. Comunque ti ha salutato Franco Claudio di Muros. Sì, questa passaggio sono riuscito a tirarlo fuori a bello pelo proprio, Ciao Claudio. Hai sentito qua? Sì, adesso ho sentito un bip, non so se era lui, però la voce non ho capito niente quello che ha detto, perché c'ho anche QRM alto, vabbè, capito, quasi a 5 stasera, e in questi giorni cosa, la frequenza è più o meno disturbata, non so cosa, anche quando ascolto le broadcast la notte, c'ho questo disturbo tipo roba telefonica, una cosa così, non riesco a capire niente, non riesco a ricevere neanche Radio Capodistria, quelle radio broadcast che mi ascolto di notte, vabbè, non lo so, avranno piazzato qualche ripetitore, cosa ne so, per le cose della televisione, per queste cose in HD, oppure è roba anche militare, sto pensando che sia, perché sono molto disturbato, io ho acceso il mio IFI, lo stavo usando ieri sera, il CP294 e già con QRM a 7 addirittura, però ho notato che non era dalla radio, non lo so cosa, da cosa può dipendere, dipende. Sì, lo so anche io, pure a certi orari ce l'ho molto alto, poi ieri sera sul tardi ho acceso a 5, perché a me di media è a 7 il QRM, 6-7, poi ci sono dei picchi a 8, per dire oggi in questo momento è 8, comunque ti ha ascoltato per un attimo, mi ha detto Franco, Claudio, vediamo dove è arrivato, se mi copia, avanti Franco, ci sei ancora? No, non ho QRM, quindi anche se ho segnale di 1-2 sicuramente lo ascolto. Adesso ti sento Franco, buonasera, mi ascolti? Una mazza. D'accordo, ciao, buonasera. Una mazza. Sì, ti ho chiamato mezz'ora e non si nasconde Claudio, va nei siti. No, ero sull'RSTA con Roberto Di Alghero, che era tanto non lo sentivo, ha chiamato e gli ho risposto. Mi ho abbassato il volume qua, ma vi stavo ascoltando. Aspetta Claudietto, la mazza, 9.40. E anche tu non sei male, mi stai sfondando la lancetta. Ho cambiato anche il console, adesso ho attaccato un altro lineare. Adesso sto solo qua con l'altro console, quello che c'ha la scritta On The Air, mi piace più illuminata, quello scrutolando, quello SP è console 2, capito? Anche ce l'ha anche, come si chiama preciso, il radioamatore, come si chiama Marco Scuro, quello ce l'ha preciso a questo. E infatti capito, l'ho reperito per quello, perché ce l'aveva lui, e prima stavo usando quello che ci dato tu, riprendi? Gappa, no, stai andando, sì, alla grande, 9.40 Radio 5, volevo sapere dov'era Franco, dove sei Fra? Ottimo segnale, alla grande. No, tranquillo, mi sento bene, sento anche Claudio, Ottimo segnale, molto meglio dell'altra, questa va bene, 6, 7, 8, 9, 6, con questo B, ma si vede che pompa. No, no, arrivi molto, molto bene, vai Roberto. Sì, anche quella radio è molto bella, squillante, Santiago 8, 9, e certi passaggi lo superi pure. E ricezione com'è? Come ci ascolti a me, a Claudio e Franco? A tutti e due? Vai Muros. Sì, sì, Quaselle, Roberto. Sì, adesso l'ascolto anch'io a Franco, passo passo riesco a tirarlo fuori, non so se mi sta ascoltando, lui sta aumentando il bit di segnale, che è quasi Santiago 3, mi arrivo, è quasi, non so se mi sta ascoltando lui, mi stai ascoltando Franco, riprendi? Gaffa, Franco, sì, buonasera, ti ho sentito, sì, e prima non ti sentivo perché è un po' distante, sì, perché c'ho anche un QRM un po' altino, non so da cosa può riprendere, ma questa sera è proprio, c'è un QRM pazzesco, non fa neanche a fare ascolto, proprio, anche le altre bande, ho visto, non lo so, hanno piazzato qualche ripetitore, qualche cosa per le televisioni, mi disturba parecchio, mi riprendi, Sparviero? Ma mi stavo inceppando con questi microfoni, stavamo a schiacciare quell'altro microfono. Sì, va bene. Franco sta arrivando magnificamente bene e tu sei una bomba. Roberto lo stesso, già va bene. Avanti Franco. Non lo so. Arrivo per 1-1, qua. No, stavo vicino all'altro col Venezia. Allucinato. Se posso dire, Venezia sta anche attaccando. Ma vedi che infatti indorra la buffonatura? Tu non ci credi. Arrivo e si sono esaltati a chi ha vinto il girone della Champions League. Vai Cla. Sì, Quaselle, sì, lo prendo io, sì, capito hai. Quella radio, capito, ci devo cambiare le valvole, la stavo guardando su internet quanto costano, viene di 19 euro l'una che me le sto guardando e vedrò di cambiargliele, perché è un peccato, perché funziona bene quel contact, è un vero peccato che è a terra di valvole. E niente, la faccio riprendere a Franco, che sì, la temperatura hai detto? Ma c'è che stanotte scende di nuovo. Forse non ti sente Roberto, lo senti a Franco Roberto? Sì. No, io stasera la cosa tutto bella, presto sono andato, bellissima giornata lì, c'era un bel sole, tutto qua, come si è abbassato il sole era il ghiaccio. Stanotte secondo me è ghiaccio. Sì, stanotte sì. Dove sei arrivato? Oltre tutto bella? Non arrivi, arrivi. Claudio, lo senti? Carpano alto si è abbassato di nuovo, non so se mi ascolta lui, perché a tratti a volte lo sento e a volte manca di modulazione, vedo solo il Santiago. Mi ascolti tu, Franco, riprendi. Dove sei arrivato, Fra, adesso? Sta arrivando bene, 6-8 qua. Ma stavo facendo liscio, Fra. Lo puoi attaccare per vedere il cambio di segnale. Eia. Stanno vendendo su internet, qua, a me non me la futti nulla, un B300, 150 euro, con la scatola nuova in ordine. No, ma faccio il B300, faccio vedere l'amplificatore, mi dopo, adesso l'ho acceso, il stand by. 5 minuti, c'è un pediatra che è preso in faccia, passo col 430, questo è 140, passo col 430 e voglio vedere se mi sente meglio Franco. No, neanche io ti ascolto magnificamente bene, però la modulazione sarà uguale, forse anche più alta quella del 430, ma il segnale se riesci a vederlo te ne accorgi che è molto più alto. E glielo superiamo il corremo, ma non ti preoccupare. Avanti, Clark, che cambia radio. Sì, sì, QSL cambia radio, quindi mi fai sentire anche il 430, vedere come pompa, capito, quindi vediamo che si aumenta il Santiago, anche se si affonda scala, capito, però voglio vedere se la lancetta va oltre il filtratino verde, capito, a vedere se supera la scritta, quella del coso del trattino, dove c'è scritto DP almeno. Che dire, ci vediamo se Franco mi ascolta ancora, riprendi Franco. L'hai ascoltato Claudio Franco? Io adesso ce l'ho a 7 il QRM, tu Franco sei appena un peluzzino sul QRM, se ne stanno a perdere in questo passaggio non ti ho capito. C'è molto QCB, fai 7-8. Ha detto che non ti sente più, ha detto che non ti accoppia più. Ora, mi senti a me Fra? Bene. Claudio, e tu? Segnale? Salito? Cappa, il segnale è sempre così, Claudio, lo dà sempre a fondo scala e però di modulazione c'è neanche a paragone con l'altra e questa è spinge, questo 430 è stereofonico proprio, quella modulazione pomposa proprio, come piace a me proprio, complimenti, riprendi. Il 430 spinge, non l'ho detto. Allora, questo mandando con... pochi watt però stiamo andando, pochi watt, vediamo se ho toccato qualcosa. Sempre con lo stesso giocattolino. L'altro giorno stavamo più disingresso, adesso le sto dando meno ingresso perché è un po' di tempo fermo, però le trovo molto ingresso, capito? Adesso le sto dando 10, 20, 30 watt di ingresso, le sto dando, arriva fino a 100 la potenza di ingresso in questo amplificatore. Ci lasciamo così, non cambierà assolutamente, però vabbè, siamo vicini noi, dai, siamo vicini da Claudio, vedi come cambia. Allora, vediamo una cosa, mi ascolta. Allora, di Franco ha detto che è quasi dentro la città. A me mi ascolti? O vabbè, ma o fra beh avanti Claudio, quindi va bene. Sì, si può essere la grande sta andando per la modulazione, che a tu mi dai, è bellissima proprio, bellissima. Cosa Franco non lo sento più, io non mi muovo neanche Santiago, quindi è probabilmente negativo su in zona per me a sentirlo. Non so se mi sta ascoltando lui, vediamo se mi sta ascoltando. Franco, mi stai ancora ascoltando? L'hai sentito Claudio? No, non ti sente Claudio. Ti ricordo però che dentro Alghero lui già è. Ad Alghero ha avuto un po' di difficoltà, capito? Ho parlato, sì, molte volte con un CP, non sa com'è che si chiamava, quello che voleva con un coso, là, il 757, com'è che si chiamava, Angelino, mi sa, un nome così, assolutamente non mi ricordo. Però avevo parlato, però lo stesso mi arrivano bassi da Alghero e riesco a farmi ascoltare a volte a di fortuna, di intendo, capito? E ho sempre difficoltà perché sono un po' negativo per quella zona, io ritengo. Vabbè, tieni conto che Angelino non è dentro Alghero, è un po' fuori, però vado a casa, Franco è dentro Alghero in macchina, quindi cambia un po', va bene, avanti Roberto. Sì, Angelino è l'orettella con l'antenna esterna, Franco è dentro Alghero, qua mi sta arrivando 7, però non riesco a capire quello che dice perché c'è ancora una 7, qualche passaggio riesco a capire, ma è mezzo a correre. Dimmi Fra, ehi Fra, d'accordo, dai, sentiamo dopo se mai, un abbraccio a Fra B, mi saluta Fra, che sta scendendo la macchina, vai Fra. Claudio. Sì, 5SL, sì, saluto a Franco, non so se lui mi sta sentendo, sì, gli rinnovo i saluti, dai, ci ascoltiamo in condizioni migliori alle prossimine, da quando modula dalla stazione fissa. Ciao Franco, riprendi se mi stai ascoltando. No, avessi già sceso la macchina. Avanti Roberto. Sì, ciao Franco, avevi sentito, la Juve è finita 1-1 comunque. Complimenti, bella gagliata, per carità. Tu lo stai dicendo scherzando, io ho paura di sì, mi dispiace pur non essendo Juventino. No, come fare? Cioè siamo a fare risultati in campionato, era 7 punti dal quarto posto, mi fai di nuovo un altro pareggio, ma che cazzo? E ora ti dico, la Fiorentina ha vinto. Sì, ora di più, ha vinto la Fiorentina, allora passa la Juve pure. Nah. Lasciamo perdere, meno male che non mi sto guardando più io, vai. Avanti Claudio. Sì, 5SL, fai bene Clay, anch'io non sono molto amante del calcio, prima ci vivo il Milan molto, ma poi quando dico che per te va sempre, una poca dosa fune, anche perché sai cos'è Clay, tu hai essere preso in giro, anche quando la squadra perde, è una cosa brutta, capito? Vabbè che la Juve come squadra è vincente, è la migliore in assoluto, perché ha avuto un sacco di coppe, di cose, di scudetti, e quest'anno che sta andando male, proprio una cosa assurda, riprendi. Lo so, è proprio veramente una cosa pazzesca, sta andando veramente molto, molto male, non so, vabbè. E girano un bel di là, adesso speriamo che non li facciano di nuovo retrocedere per questo plusvalente, vabbè, il discorso che ce ne sono tante di società, se no dovrebbero fare retrocedere un bel. Ma tanto la Juve secondo me se non va in Champions League fa quella Superlega, col Barcellona la stessa cosa, anche il Barcellona sta andando male, e fanno un piccolo girone di 4-5 squadre come erano fatte prima, e vedi che si fanno le coppe per conto loro. Vabbè, ma è vergognoso, lasciamo perdere, è vergognoso, lasciamo perdere, no, non va bene così, vabbè, cosa vuoi che ti dica? Allora, capire se allora da questo passaggio la modulazione mi interessa, perché ho fatto la caratura giusta dei watt d'ingresso. Allora, se cambia la modulazione, ecco qua, cambia la modulazione, è rimasta normale. Da parte mia non cambia niente, vedi? Anche da me, là, sempre uguale, il segnale è sempre lo stesso. Perfetto. Adesso diamo un altro colpetto, eh. Ecco qua. Vediamo un po'. Ha cambiato la modulazione. Il segnale è sicuramente salito. Ha cambiato. Sempre così. La voce è identica, il segnale è uguale, non ha cambiato niente. Va bene. Allora lasciamo stare così. Vediamo se è accordato bene. Sì. Eccolo qua. Va bene, va. Lasciamo stare così allora. Se mi dite che va bene. Sì, confermo. Prova a attaccare il giocattolo e lo fai, così ti dico la differenza. Allora, lo faccio in diretta. Questo è un HI. E questo è l'off. Cambia qualcosa. No, tu parli di radio, di segnale, già che no, proprio dico, elimina completamente la stufa e lascia diretta la radio. Ah, vabbè, allora facciamo molto pochi, mettere il scatto. Allora, così è radio diretta. C'è una differenza, non tantissimo, me ne accorgo perché c'è l'altoparlante esterna, leggermente satura, ma poco, forse perché è talmente forte il segnale e quasi non lo percepisci. Comunque c'è una differenza tra attaccato e staccato di radio, niente di importante perché va benissimo. Però, infatti siamo troppo alti. Andare così come ingresso, capito? Quindi guarda così e senza amplificatore, ok? Così e senza amplificatore, stai attento, così e con l'amplificatore cambia la radio. È quasi impercettibile, me ne accorgo perché, ti ripeto, c'è l'altro parlante esterno, sicuramente la maggior parte non se ne accorge. Anche la tecla. Appena, ho visto che staccato mi arrivi sui 9.20, 9.25, con attacchi sia come scala, però staccato un po' tende a calare, siccome detto Roberto, ma sì, una cosa da nulla, mica, perché io sono molto più vicino rispetto a Roberto, capito, però vanno bene entrambi per me, però quando si è attaccato mi piace di più, mi piace, perché è anche più stereofonica, che dire, là, in primo momento però vi devo salutare, che devo andare a fare carico batteria, che mi stanno giù aspettando a cena, e che dire, saluto a te, a Roberto, a tutti gli eventuali amici SWL in ascolto, io passo in cuore TSK e ci ascoltiamo e ci sentiamo alle prossimine, da, mi ha fatto piacere, grazie del QSO e alle prossime, riprendi Roberto. Ciao Carlo, Carlo Claudio, fatti sentire più spesso, dai, e buona carica, buon tutto, saluto a tutti in casa, vai Claudio. Ciao, saluto a babbo, mamma, a tutti, ci aggiorniamo, piacere averti riascoltato, e anche io mi ho passaggio a voi. Andiamo a papai, che sono già le 8, vero? Poi alle 9 voglio fare questa prova, se sono fortunato, c'era coso, come si chiama, Marco, eravamo 5.25 poco fa, un'oretta, più di un'ora fa, e voglio vedere questa prova, se per caso sono così fortunato di attivare il satellite, che tu mi ha dato le coordinate a 145.920 e 435.300 col cono a 67. Speriamo che ce la faccia, se no pazienza, si faranno le prove con l'altra antenna. Vabbè. Ma se te l'ho detto Marco già ce lo fai. Quindi così mi hai detto il segnale com'è, Robert, 9? Allora, se sei staccato sei quasi 9.20, come attacchi arrivi 9.30 e lo superi di un peluzzino, poi se attacchi la seconda potenza arrivi a 9.35 staccato. Questa è la prima potenza, Robert, non ce l'ho agganciata. A me pare di ser questo tipo di amplificatore rispetto alle, a quando parli senza l'amplificatore che c'ha i picchi positivi, questo rimane stabile, anche se parli o non parli rimane secca il segnale, non ha i picchi, rimane esattamente come senza la modulazione. È diverso la valutazione del danno, se avesse i picchi di modulazione sicuramente salirebbe molto di più. Sì, sicuramente. Aspetta, rimettiamo il logo. Eccolo qua, mettiamo il logo, vabbè, neanche la metà, un quarto della metà, insomma. Va bene, anzi, guarda, adesso facciamo così. Ecco qua. Lo prendiamo del tutto, non ce ne vuole da più, KK. Però la vuoi sapere una cosa, quando attacchi il coso l'amplificatore ti riduce il rumore intorno, sanamente. Sì, lo so, il ventatore c'è un sistema spettacolare, ha due ventole, ma c'è dove ce li ha le ventole, non ce li ha né ai lati e né dietro, ce l'ha sotto, e fa una che aspira e una che tira fuori, una che aspira e una che tira fuori, quindi sicuramente si porta dentro tutti i rumori sottofondo, capito? Eccezionalmente amplificatore. Dai, con fa delle cose spettacolari, la comma. Pesante, grave. Quanto è 9,40? Quindi è più grosso di quello che da ieri. Sì. È bello. La con 1000. Invece c'è il picchi di modulazione, no? Sì. Ehi, no, qui sono... Adesso, asciughe. Ma che cosa, ma ne... Siamo senza potenza, sto dicendo. 4 watt, no. Però 4 watt, adesso sono... 35 watt, 40 modulati. Allora qua parti da 9,25 e arrivi quasi a 9,30, un peluzzino a 9,30. Però quando attacchi tu sei 9,30 spaccato basso e 9,35 spaccato senza picchi, cioè rimane il segnale stabile. KK, andare. Non problema. Ehi, vabbè, l'ho dovuto richiamare, vabbè, perché era dentro conservato e non altrimenti è un casino, capito? Altrimenti è un casino, va bene. Dai, però beh, io me ne vado a pappare, sono già quasi le 8:10, ci sentiamo, ok? Sì, io dopo voglio fare questa prova alle 9:05, dura 16 minuti il passaggio, se ci riesco sono pazienza. Quelli durano poco, non è che, capito? Va bene, mi ci rimetto come ero, 10 watt. E poi passa col 140. Va bene, ci aggiorniamo allora, dai. Sì, ragazzi, ok, io adesso vado un attimo dall'altra stanza e poi ritorno qua. Ok, il 2000 comunque con quell'adattatore che mi ha dato Gianfranco, che mi ha comprato lui, funziona perfettamente, l'altro era levarsi difettoso, e quale ti ha dato? Dai cinesi, lui mi aveva dato l'adattatore suo del TS2000 e io ne avevo un altro che diventava la porta seriale USB, il mio che ci avevo, e non riuscivamo a farlo partire. E tra me forse il coso che non funzionava, infatti era quello lì, appena l'ha preso, stamattina, ieri è andato dal cinese, stamattina me l'ha portato, gli ho dato i soldi e funziona perfettamente. Per accendere la radio, fare tutte le funzioni dal computer. Ah, ci è riuscito, va. KK. Ascolta, mentre invece molta differenza c'è tra il 50 e il 60, questo è 140 con l'MC50. Già, yeah, perfetta, bellissime tutti e due. Dovresti fare una commutazione per dirti se è meglio una o l'altra. Questa per me è bellissima, l'altra è una bella uguale, però a memoria non riesco a identificare la differenza. Certo che è un casino. Vabbè, i microfoni comunque sono tutti e due buoni, vanno bene. Va bene Robby, dai, se ci siete entro dopo, intanto domani è sabato, quindi non c'è problema. Se 17 a dopo, ok? Vado a mangiare, ciao. Ok, ciao ciao, buona fretta, buon tutto. Attenzione 10K, sono capo a 30, cioè.